Mix 24 di Giovanni Minoli. I faccia a faccia della storia. Oggi su Mix 24 per la serie Faccia a faccia della storia, curati da Sara Tardelli, vi presentiamo l'incontro con Daniel Cohn-Bendit, leader del 68, oggi uno dei leader verdi in Europa. Daniel Cohn-Bendit, tedesco di nascita, francese di educazione e di adozione, detto Dani il Rosso, è stato il simbolo del 68 francese. Fu lui infatti ad accendere la scintilla guidando 800 studenti all'occupazione del rettorato di Nanterre il 22 marzo del 68. Nacque lì il maggio francese, un fuoco che parve incendiare il mondo. Il 19 maggio De Gaulle in persona tornò precipitosamente in Francia dalla Romania per sedare la rivolta. Dani il Rosso aveva occupato la Sorbona e 5 giorni dopo fu espulso dalla Francia, indesiderato e pericoloso. Si definiva anarchico e marxista, ma annunciava la senilità del comunismo. Marx, Mao, Marcuse erano i suoi autori. Idolo di una stagione troppo breve, quando lo cacciarono tutta la Sorbona gridò per ore intere «Siamo tutti ebrei e tedeschi». Esiliato in Germania, ebbe guai con la giustizia e contribuì a demolire il proprio mito. A Francoforte fondò una comune anarchica e tentò anche la strada del cinema. Nel 75 ha scritto un libro autobiografico, Le Grand Bazar. Dissero che era diventato un ingenuo penitente. Fondò un centro di cultura e si avvicinò al movimento dei Verdi. Divenne Dani il Rosso Verde. Oggi continua con un certo distacco ad essere un leader senza seguaci. Un intellettuale di sinistra ma senza più maestri e senza percorsi chiari. Nel 78 Giscard d'Estaing, presidente della Francia, gli ha permesso di rientrare in Francia. Un atto di cortesia e un riconoscimento di non pericolosità. Ecco, Cohn-Bendit, lei spesso si è descritto come un capo involontario del 68. Perché involontario? Involontario perché io non sono un capo, io sono anti-autoritario, sono contro i capi, io sono il capo contro i capi. Senta, ma quando ha capito che era finita l'avventura del maggio 68? Io non credo che è finita. E ancora, abbiamo vinto il 68. Oggi la società ha completamente cambiato. Allora perché la società ha cambiato? No, anche abbiamo cambiato. Ma non è finita l'avventura. L'avventura di democratizzazione della società continua oggi. Ecco, quindi non c'è stato un momento in cui lei ha avuto la percezione che comunque nella forma di quel maggio c'era stata la sconfitta? Sconfitta no, non mai. È stata sconfitta individuale, è stata problema individuale, perché prima di 68 sono uno che nessuno lo conosco e poi in 3 settimane sono il Dani Rosso. Questa crea problemi individuali, ma sconfitta politica no, non ha mai avuto. Cioè il 68 ha vinto secondo lei? Sì, sì, sì, l'Italia oggi è così perché il 68 anche in Italia ha vinto. Sì, la Francia è così oggi perché tutta l'autonomia della società, la libertà della nostra società viene da questi movimenti. Senta, comunque lei in quei giorni del maggio del 68 ebbe a Nanterre, il cuore della Università francese, la laurea senza dare esami, con questa motivazione. È uno studente fuori serie, di eccezionale intelligenza e molto curioso. Ecco, era un modo di liquidarlo, no? No, e questo è il problema. Quando uno viene al primo piano e deve trovare una definizione, allora ha pensato di dire che io sono molto intelligente e più facile a far passare. Ma non credo che li liquidare. Il problema della società francese a questi tempi è di capire che questi non lo conoscono, non fanno politica come gli altri, ma dice cose intelligenti e poi ha 2 nemici, il capitalismo e il comunismo. E questo è difficile a capire. In che senso 2 nemici? Ma perché il più grande nemico di noi è stato il Partito Comunista Francese, che hanno attaccato molto brutto, hanno detto io non sono francese, sono tedesco, giocando la fibra nazionalista francese, e anche il gaullista hanno fatto lo stesso, perché un giovane ebraico nato in Francia di parente tedesco eccetera è il simbolo della gioventù francese. Non va. Possibile. Non è possibile. È se, peggio dei non Platini. Era sciovinista? Io? No, la situazione. Francia è molto sciovinista. E quindi non era possibile che il leader fosse uno strano? No. Daniel Cohn-Bendit. Senta, però lei è tornato a Nanterre, ma è stato accolto da un coro di vecchietto che cosa vuoi, insomma. No, cosa ha provato? Questo è stato un errore della Repubblica in Italia e un po' della televisione, perché non è vero. Com'è andata allora? È andata molto bene. Sono arrivato per un giornale e poi le gioventù mi hanno riconosciuto, hanno detto vieni a parlare con noi. In 5 minuti è stato 1500 studenti nell'aula per parlare con me. Ma allora perché hanno detto che invece l'hanno accolto? Perché al momento quando io ho parlato, dopo io, ha parlato un giovane di destra. Loro hanno fiscato il giovane di destra. La televisione francese ha preso le fischi contro la destra e la faccia mia ha detto loro... fischiato con Bendit. È un gioco mediatico, non è importante. Senta, ma se dovesse spiegare a un giovane di 18 anni che cosa è stato il maggio del 68, in due parole cosa direbbe? In due parole. Una volontà, un bisogno di libertà e di autonomia. Ecco, ma sempre in questa ideale conversazione immaginaria con questo diciottenne, quali sono tre cose o due o tre cose che direbbe sempre a questo diciottenne per dimostrargli che oggi senza il 68 lui non le avrebbe avute queste cose? La libertà sessuale, lo so il problema con AIDS oggi, ma prendiamo il problema un altro, la libertà sessuale, la libertà, l'autonomia nel lavoro e poi l'autonomia e la libertà nella cultura. Questi tre sono i momenti. Senza il maggio francese, senza questo movimento, non sarà così oggi. Perché lei dice l'AIDS però il problema? Ma sì, perché l'AIDS e la libertà sexuale oggi è una... Ma lei la difende ancora come scelta o no? La libertà sexuale io lo difende ancora. Io penso che dovremmo trovare una possibilità di vivere una sessualità e anche di fare una protezione contro l'AIDS. AIDS è un grande problema per le gioventù oggi. Senta, Combandini, il suo libro si intitola Non abbiamo amato, noi abbiamo amato molto la rivoluzione. Ecco, oggi lei si considera ancora un rivoluzionario o no? Oggi mi considera come un riformatore radicale. Che differenza c'è tra essere rivoluzionario e riformatore radicale? Io non penso oggi a una società, un socialismo autogovernate, mitica. Io penso che il cammino è una trasformazione permanente della società come oggi. Ecco, ma cosa prova chi ha amato tanto la rivoluzione come lei quando legge di un ennesimo omicidio compiuto dai terroristi? Che cosa prova? Questo è stato uno dei grandi problemi che esce del movimento del 68, questo bisogno della rivoluzione. Ecco, ma lei cosa risponde, diciamo, a chi accusa il 68 di essere padre del terrorismo? Io dico, noi abbiamo una responsabilità, ma non siamo i padri. Il padre è la società e la madre sono noi. Siamo due responsabilità. Io sono d'accordo di dire che io ho una responsabilità, ma la società, come esiste in Italia, in Germania, in Francia, ha anche una responsabilità. Ecco, ma la responsabilità sua, parliamo di questa, qual è la più grande, da questo punto di vista? La più grande, in senso di movimento. La più grande è stato che noi abbiamo un tempo, quando abbiamo detto il potere è con il fucile, questo è stato una metafora. E noi abbiamo che è diventata realtà. Questa è la responsabilità. Ecco, ma che cosa allora del 68 è degenerato al punto di produrre questo tentativo di potere dei fucili? Solo una cosa, non generalmente il 68, una parte del 60, una piccola parte è andata così. E perché in 60 e anche democratizzazione è un'idea della rivoluzione del 1900 e la rivoluzione è violente, questo è un grande problema. Ecco, ma per lei che cosa è un terrorista? Ma dipende dove. Cioè? Un terrorista. In Europa. In Europa un terrorista è uno che non ha più un quadro di pensiero dentro la società, è uno che si è messo fuori della società. E allora pensa hanno un punto di riferimento completamente folle. Ecco, ma lei ne ha conosciuti tanti di quelli che oggi sono dei terroristi? Hanno conosciuto, sì, sì, hanno conosciuto molto. E perché è, a un momento questo giovane, per esempio, hanno pensato vogliamo cambiare la società. Poi ha, come molto rivoluzionario, ha uno una visione paranoica della società. Il nemico è questo generale ucciso ieri, il nemico. Non pensa che questo generale è niente. Sono d'accordo quando uno dice io sono contro la guerra di Stella, ma se io sono contro la guerra di Stella non ho bisogno di ammazzare questo generale, perché o lui un altro o nessuno fa questo generale, è un altro tipo di lotta. Senta, ma nel 68 chi erano i suoi interlocutori in Italia, se c'erano? In Italia al tempo sono stati gente nel gruppi extraparlamentari come Potere Operario, dopo Potere Operario, Lotta Continua, sono gente come Scalzone Piperno a un punto, sono stati gente come Adriano Sofri, Viale, eccetera, eccetera. Ecco, ma lei ha continuato ad avere rapporti con loro anche dopo o no? Sì, abbiamo continuato ad avere discussioni molto... Perché... Ma a che punto lei si è dissociato da loro, se si è dissociato? Ma non è il problema che io non sono dissociato. Io fra le 1975 sono entrati in questo movimento ecologico e poi ha continuato a lottare con i verdi tedeschi, e la maggioranza di loro o sono state nell'era dell'autonomia e poi sono state individualiste politicamente come Sofri, come le ultime di Lotta Continua, non ha continuato a fare politica, io ho continuato a fare politica, questa è la grande differenza. Ecco, ma la parte che si è poi lentamente orientata verso il partito armato, lei ha continuato a averla come interlocutore? No, no? Io ho difenduto tutte le volte che io continuo a parlare con queste gente, allora, perché diciamo... io penso che la necessità, la responsabilità mia è di argomentare contro la lotta armata. Se ecco, io voglio argomentare... Ecco, ma che argomento userebbe oggi di fronte a un terrorista? Ma di dire fine, basta così, perché tu cambia niente, primo, e secondo rinforza la parte la più reazionaria, la più autoritaria della società. Che cos'è che unisce le Brigate Rosse, l'ETA, l'Action Directe, la Rote Fraction Armée? L'ETA è un altro problema. Action Directe, BR e... Sapete quanti genti sono? Quanti? Sono 15, 20. Quando parliamo... Ma come fa a saperlo che sono 15 o 20? Ma va a vedere, a Francia hanno preso 4 e finito. Mm. In Italia sono le cellule combattente, non lo so, sono 5-10 persone e finito, basta. Mix 24, i faccia a faccia della storia. Continua l'intervista con Daniel Cohn-Bendit, leader dei Verdi Europei. Daniel Cohn-Bendit, a 20 anni da quello che è stata definita la seconda rivoluzione francese, cioè il maggio 68, sì. Lei dove pensa di aver sbagliato? Se c'è un punto in cui pensa di aver sbagliato? No, abbiamo sbagliato un punto molto chiaro. Nel 68, quando il sciopero generale, noi abbiamo detto elezione e l'arma della borghesia, questo è stato l'errore. Noi dobbiamo andare davanti il primo a dire noi vogliamo nuove elezioni, il paese... reale, non è uguale con il governo, vogliamo trovare una nuova maggioranza, questo è stato il nostro grande errore. Senta, lei l'anno scorso ha ammesso che concepire la rivoluzione come presa violenta del potere è stato un errore, compiuto da molte generazioni e non solo da una generazione cretina e infantile come la mia. Perché la sua generazione era cretina e infantile? No, questo è un gioco di... Perché quando c'è discussione, io dicono per disarmare l'altro, d'accordo, siamo stato cretino e infantile, ma dopo hanno avuto idea molto interessante per la società di oggi. Allora, sono d'accordo sul cretino e infantile, discutiamo di cose serie. Senta, lei è un personaggio curioso. Da 0 a 16 anni non ha avuto nazionalità, l'ha detto anche prima. È un ebreo a cavallo tra Francia e Germania, detesta star solo, detesta vivere in coppia, per questo ha deciso di vivere in una comune. Perché in una comune? Fino a oggi perché io ho paura di vivere a due solo. Ma ieri hanno preso un appartamento con mia amica per fare un appartamento a due. So, cambia. È passato dopo 20, la coppia? Ha passato, no, la coppia lo vivo, ma ha fatto un passato e tenta di vivere a due con un bambino un appartamento. Ma quindi più niente comune? Per un tempo abbandona la comune, sì. Ecco, ma che cosa ha di meglio la comune di una coppia o dello star solo? Da solo e da solo. In coppia tutti i problemi sono a due. In comune c'è una possibilità di cambiare l'atmosfera perché sono altri gente. Però adesso ha scelto la coppia. Ha scelto la coppia perché dopo 20 anni voglio... Cioè anche la comune dopo 20 anni stanca. Ma è come tutti. Senta, Combendì, lei, lo abbiamo detto, è ebreo. In che cosa si sente ebreo? Mi sente ebreo solo quando c'è un antisemitismo. Ecco, però lei a proposito dell'antisemitismo ha dato una definizione molto singolare. Ha detto, l'antisemitismo per paradosso... Si potrebbe dire che non ha niente a che fare con gli ebrei, che sono stati per caso la sua prima vittima. Non le sembra un po' forte per un ebreo? Cosa voleva dire? Volevo dire che l'antisemitismo è stato un punto più alto di un problema generale che il razzismo. Oggi sono gli ebrei, domani sono gli arabi, eccetera. L'antisemitismo è il rifiuto della differenza. Ecco, ma quindi vale in generale, secondo lei? Sì, sì. Ecco, ma a lei lo Stato di Israele piace o no? Il Stato di Israele è stato nato veramente dopo il nazismo. È un errore storico necessario. Ecco, ma allora diciamo, più semplicemente, lei si sente di più dalla parte degli israeliani o da quella dei palestinesi? De tutti e due, sono per due Stato, Stato Israele e Stato palestinesi. Ecco, nel 68 lei diceva, non ho mai preteso di essere il prototipo di un rivoluzionario, l'unica cosa che ho preteso è di divertirmi di tanto in tanto. Non le sembra un po' ironico rispetto a chi ha creduto qualcosa? Ma credo anche, il problema è che in 68... Quando tutto dice tu è uguale di Che Guevara, tu è uguale di Fidel Castro, ci dice no, io sono fanno un gioco e per andare contro il mito del grande rivoluzionario. Ma ecco, pensiero politica è seria. Ecco, ma oggi non le manca un po' la ribalta politica? Io credo che continua una ribalta politica. Quando noi 3 anni fa abbiamo detto in Germania il Partito Verde vanno al potere, tutta la gente ha ridendo. Oggi c'è la coalizione verde socialdemocratica in una regione di Germania e nei 5, 6, 7 anni questi verdi vanno ad andare al potere in Germania. E questo è una forma di rivolta. Senta, ma la sensazione di essere un po' un sopravvissuto lei non l'ha ancora mai avuta? No, no, non credo. Io credo il contrario. Cioè? Io credo che noi siamo oggi la generazione la più moderna della nostra società. Più moderna perché? Perché noi non abbiamo una ideologia a difendere. Abbiamo capito che il socialismo con un grande S o il comunismo non c'è, ma non la religione non abbiamo a difendere, il cattolicismo non abbiamo a difendere, allora possiamo vedere la società in realtà. Senta, lei nel suo libro Confessione sul 68, Le Grand Bazar del 75, ha ammesso che la sua condizione di portavoce del movimento le piaceva e si adattava a tutta una componente narcisistica di attore. Io non conosco un uomo politica che non è narcisista. Non esista. Allora se c'è non fa politica. E senta, e l'attore Combendì che fine ha fatto? Perché lei ha fatto anche un film con Godard. Sì, ha fatto l'attore in scuola, eccetera. Io sono anche un attore, ma è anche lì un politico oggi. Chi vanno a fare un discorso, parlare, è un attore. O Andreotti è un attore, Craxi è un attore. Ti assicuro, quando vieni qui non va mai a ammettere questo, ma in vero deve essere un attore perché c'è la televisione, deve... E Reagan, non è così, Reagan è stato presidente perché è politico e attore, ma l'America è un po' più davanti che tutti. Quindi i media e la politica sono sempre più stretti. Ah, questo è il grande pericolo. Con Bendì, volevo chiedere una cosa, a lei... Che cosa impedisce allora, avendo questa consapevolezza, oggi di mettersi alla testa di movimenti che le piacciono, come quella dei Verdi? Ma questo è il problema. Io non voglio essere alla testa, perché io voglio guardare mia autonomia. Sono metà politico, metà giornalista. E voglio continuare a fare tutte e due. Ecco, senta, i giovani di oggi... Si definiscono semplicemente, vengono definiti o movimentisti o depoliticizzati. Perché secondo lei? È vero così o no? Non credo che le giovani di oggi sono depolitizzate. Le giovani di oggi non credono in un grande mito storico, questo è uno. E secondo vogliono difendere una concezione della vita efficace, moderna, e allora non vanno e tutti i movimenti. Ecco, ma perché secondo lei oggi fioriscono i movimenti che vivono per una battaglia sola, o comunque che vivono soprattutto su una battaglia sola, come, non so, l'ecologia, il movimento nucleare, eccetera? Ma l'ecologia è più generale, ma perché la giovane di oggi vogliono vincere? Posso vincere su una battaglia contro questa riforma, contro il nucleare, ma sì, l'obiettivo in generale, il cambiare tutta la società, non mai va a vincere, perché un cambiamento che continua per la vita. E quindi hanno capito la lezione del 68, secondo lei? Sì, credo, tutta la società, nostra società hanno capito questo. Senta, ma lei nel 68 ha tentato la rivoluzione al grido di spegnete la televisione e aprite gli occhi. Adesso siamo qui in televisione a parlare di quel tentativo. Cosa è cambiato? Ma in 68 la Francia ha capito questo che noi vogliamo attraverso la televisione, sì. Quando noi abbiamo parlato... Ma lei diceva spegnete la televisione, sì, e aprite questo, gli occhi. Questo è stata una provocazione. Spegnete la televisione quando voglio fare l'amore e apri la televisione quando voglio guardare la televisione, ma non fa l'amore e guarda la televisione nel mesmo tempo. Questo è quello che diciamo. Senta, ma lei oggi c'è un programma che vorrebbe fare in televisione? Sì. Quale? Io vorrei fare un programma oggi di mostrare che l'Europa esista, ma l'Europa non è l'Europa dei politici. L'Europa oggi c'è l'Europa del movimento sociale, dei giovani, della gente. E io voglio mostrare questo. Senta, il 68 è stata anche la prima... E poi un altro. Sì, mi dica. Fare un'emissione di sport. Di sport. Perché tutti sono molto brutti. Solo i grandi, le grandi. Mostrare le cose reali del sport. Questo, cioè, per cose reali cosa intende? Ma il problema reale, perché la gente sono per il sport, e anche il momento che tipo di avventura, che bisogno di avventura c'è dentro il sport. Senta, il 68 è stata anche la prima rivoluzione nella storia dell'uomo che è stata, per così dire, in diretta, seguita cioè minuto per minuto dai media. Sì. Ecco, 20 anni dopo, lei pensa che la televisione fa bene alle rivoluzioni o le consuma come un prodotto di consumo? Ma è tutte e due, vuol dire la televisione è. E per esempio il movimento di oggi è un movimento mediatico, capisce il medio. Ma noi siamo stati la prima generazione a vivere al ritmo del mondo. Perché una manifestazione in America allo stesso momento arriva da noi, eccetera. Questo cosa arriva oggi in Vietnam, lo sappiamo anche, e per questo siamo la prima generazione cosmopolita, perché abbiamo capito tutto. Senta, Combendì, le faccio un'ultima domanda. A 23 anni, nel 68, 22, lei le hanno chiesto come si immagina a 40 anni, e lei rispose, che ne so, non primo ministro, ma diciamo forse presidente della Repubblica. Ecco, perché non è diventato presidente della Repubblica? Ma c'è un amico che è ministro, non sono presidente della Repubblica perché questo lavoro è annoioso. Non è per me. Io, ma in 20 anni non lo so. Può darsi a 60. Può darsi a 60, non presidente della Repubblica, ma ministero degli stranieri, come si dice, degli affari stranieri e girare nel mondo. Questo è possibile.